La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole di questa settimana è dedicato alla Seconda Guerra Mondiale, il cui anniversario dello scoppio è stato celebrato lo scorso 1 settembre a Danzica. Ospite ai nostri microfoni il fotografo Marco De Logu, curatore della mostra Scatti di guerra, Lee Miller e Tony Vaccaro dallo sbarco in Normandia a Berlino. Nella seconda parte vi proponiamo un radiodocumentario sulle molte profezie della venuta del regime nazista in Germania. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel sabato 26 settembre alle 20. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. È stato definito l'evento più catastrofico della storia dell'umanità e ha ragione se si considera che alla fine del conflitto il bilancio dei morti raggiungerà l'impressionante cifra di 60 milioni. Il tutto è avvenuto 70 anni fa. Sembra una distanza enorme, in realtà è come se fosse l'altro ieri se si considerano i cicli della storia. Stiamo parlando, l'avrete senz'altro capito, dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Per rievocare l'evento si è svolta lo scorso 1 settembre a Danzica una cerimonia alla presenza di molti leader mondiali. Significativo l'intervento della cancelliera tedesca Angela Merkel, erede lontana di quell'Adolf Hitler che scatenò il conflitto. L'invasione tedesca, ha detto la Merkel, aprì la pagina più tragica della storia europea. Di un certo peso anche l'intervento del primo ministro russo Vladimir Putin, erede di quello Stalin che firmò il patto scellerato con la Germania nazista, il patto Ribbentrop-Molotov. Quel patto, ha detto Putin, fu immorale e condusse due paesi a spartirsi le spoglie della Polonia invasa, ma responsabilità le ebbero pure Francia e Inghilterra per le debolezze che fino al 1939 permisero al nazismo di dilagare. Il primo settembre del 1939, con l'invasione della Polonia, la Germania nazista apriva le ostilità della guerra più sanguinosa mai combattuta in Europa e nel mondo. 5 anni di orrore, di stragi e di morte, che costarono la vita ad oltre 60 milioni di persone. Alle 4:45 del mattino scattò il Fall Weiss, il piano bianco. La corazzata Schleswig-Holstein, giunta a Danzica il giorno prima in finta visita di cortesia, aprì il fuoco contro un deposito militare polacco sulla penisola fortificata di Westerplatte, alle porte di Danzica. L'ordine d'attacco era stato comunicato da Berlino alle 17 del giorno precedente. La guerra lampo piegò rapidamente il paese. Il 1 ottobre era completamente occupato. Anche perché il 17 settembre l'Unione Sovietica attaccò da est, rompendo unilateralmente il patto di non aggressione firmato con Varsavia nel 1932 e rinnovato nel novembre 1938. Ma per 7 giorni i 182 soldati della guarnigione polacca tennero testa agli oltre 3.000 tedeschi che, dopo le prime cannonate sparate dalla vecchia corazzata, attaccarono in forze dal mare, da terra e dal cielo. Nel dopoguerra, decine di scuole e navi polacche sono state intitolate agli eroi di Westerplatte. Andò è scritto in tutti i libri di storia, 5 anni di guerra che coinvolse buona parte delle grandi potenze dell'epoca, dall'Europa che divenne un immenso focolaio di guerra al Pacifico, agli Stati Uniti. Proprio nel cuore dell'Europa si visse l'immensa catastrofe dell'Olocausto con lo sterminio di 6 milioni di ebrei. Abbiamo scelto di rievocare con voi la tragedia della Seconda Guerra Mondiale portandovi idealmente attraverso i saloni di una mostra che si è svolta nelle scorse settimane alle scuderie del Quirinale dal titolo Scatti di guerra, Lee Miller e Tony Vaccaro dallo sbarco in Normandia a Berlino. La mostra è stata curata da Marco De Logu e Umberto Gentiloni con la collaborazione di Reinhard Schulz. Abbiamo in studio con noi proprio uno dei curatori, Marco De Logu. Lo ringraziamo intanto per essere qua con noi. Marco De Logu, che è anche direttore artistico del Festival Internazionale di Fotografia a Roma. Quindi, diciamo, una scelta professionale tutta all'impronta della fotografia, Marco. Sì, la mostra, diciamo, la mia è una scelta totale rispetto alla fotografia e all'impronta della fotografia. La mostra è una mostra che logicamente parla di questo avvenimento storico che, come tu hai definito, l'avvenimento più importante del Novecento, però ne parla da un punto di vista di due storie che si intrecciano anche personalmente, che è un po' anche il mio punto di vista sulla fotografia. Nel senso che Tony Vaccaro è un giovanissimo italo-americano che fa il soldato e sbarca a Omaha Beach. In realtà Tony non ricorda bene se è sbarcato il primo, il secondo o il terzo. Stiamo parlando ovviamente dello sbarco in Normandia. Dello sbarco in Normandia, certo. Del giugno del 1944, sì. E Lee Miller è una fotografa, un'artista già affermata che ha vissuto tutta la stagione del surrealismo, è stata una modella a New York negli anni 20, super famosa per Vogue, Harper's Bazaar, eccetera, e alla fine decide, per un suo bisogno personale sicuramente, che deve, diciamo, testimoniare la guerra. E quindi la mostra è questo doppio percorso di due storie personali che si intrecciano con un avvenimento incredibile. È molto interessante questo, diciamo, accostamento tra storia e fotografia. Come la fotografia vede la storia? Ma il Novecento è il secolo, diciamo, così possiamo usare tantissime definizioni, però è il secolo in cui la fotografia e l'immagine accompagnano la storia. E la fotografia si interroga sempre sulla storia e si interroga sulla verità. Il problema è di evitare un po' la retorica del vero, nel senso, per me è interessante, e questa mostra è un'ennesima dimostrazione, appunto, quando le storie personali entrano, quando la microstoria entra all'interno della macrostoria e quando il bisogno di una microstoria entra all'interno del bisogno di raccontare una macrostoria. Io, diciamo, non ho un, per usare un eufemismo, non ho una particolare predilezione per il reportage mordi e fuggi. Questa mostra è assolutamente tutto tranne che un reportage mordi e fuggi, è il vivere intensamente una storia così importante, tant'è che addirittura Lee Miller non vuole tornare da suo marito, da Roland Penrose, e continua nel 1946 a vagare per l'Austria, l'Ungheria, eccetera. E Tony Vaccaro ritorna e passa in Italia a vedere che cosa è successo alla fine della guerra in Italia, perché lui è di origine italiana. Per cui la biografia di queste persone si intreccia tantissimo con la storia più grande, insomma. Ed è un percorso che noi ritroviamo anche nella tua funzione di direttore artistico del Festival Internazionale di Fotografia a Roma. Ecco, in che senso allora questo percorso si interseca con la tua attività? Ma la mia attività sicuramente si interseca sempre, è uno spunto di riflessione anche quando non ho niente da fare, nel senso, anche quando le notti, che per fortuna non sono tantissime, in cui non riesco a dormire, o le mattine in cui sto davanti a un muro bianco. E penso che appunto la fotografia è una visione, un modo di vivere la vita, un modo di vederla, eccetera, però sicuramente a me l'immagine così se per sé non mi interessa assolutamente, mi interessa appunto quando tutte piccole storie che appartengono alla vita dei singoli fotografi si sposano con cose più interessanti. E questo posso dire, che ne so, tutti i fotografi sudafricani che hanno testimoniato la fine dell'apartheid, sicuramente partendo da bisogni personali, a tutti gli altri, da Don McCallin, che ha fatto una conferenza quest'anno al Festival, che è stato il grande fotografo del Vietnam, un altro avvenimento, diciamo, importantissimo all'interno del Novecento, e che poi ha deciso basta, di finire con quel lavoro e fotografa soltanto le campagne vicino a casa sua. Ma non per questo il suo lavoro è meno importante, anzi le sue riflessioni, di un 75enne che ha visto Libano, Biafra, Cipro e Vietnam, sono assolutamente interessanti, anche perché lui decide di fare questo lavoro e altri lavori, tipo uno sull'impero romano, e per capire che cosa era successo in battaglie dove anche lì c'erano state centinaia e centinaia di morti. La fotografia e la storia hanno un legame fortissimo. L'importante è di non voler subordinare la fotografia alla storia in assoluto e di dare spazio a quelle che sono le storie personali. Cioè, in qualche modo si può dire che la fotografia racconta la storia, la accompagna, la aiuta a comprenderla? Sì, penso assolutamente di sì. L'importante è appunto non pensare che ci sia una verità nella storia, ma avere sempre il tarlo del dubbio e non pensare che ci sia una verità nella fotografia. Adesso esistono tutte queste discussioni più o meno legittime sul digitale, l'immagine vera, sì, è stata modificata. Esistevano anche col più grande protagonista della Seconda Guerra Mondiale da un punto di vista fotografico, cioè con Capa, sull'immagine se il miliziano nella guerra, diciamo, che ha preceduto la Seconda Guerra, cioè nella guerra di Spagna, era vero, era costruita, o l'immagine di uno sbarco in Normandia, eccetera. Per cui sicuramente vanno insieme e la fotografia aiuta la storia. La storia e la memoria torna tra poco. Restate con noi.